Avvocati di Pierluigi Pardo. Yeah, prende Sergio da Paul Pogba, a soli 20 anni guardalo dove sta. Scendi in campo, stile eleganza, non farti le pippe dentro la tua stanza, yeah. Parte Quadrado, velo di Dybala, sbuca Pogba, zona tiro per Pogba! Eccolo! Dopo le critiche, dopo un periodo complicatissimo, il fenomeno viene fuori, Paul Pogba, 100 in Serie A, 22esimo gol, 1-0 Juve. Prende Sambio da Paul Pogba, marca l'avversario, manda giù lo stadio. Ancora per Bonucci che prova a inventare, Pogba, Pogba! Pogba! 1-0 Juve! Pogba! Un capolavoro! Perché? Se tu credi in te, gli altri crederanno in te, perciò credi sempre in te, e vedrai che quello che sogna arriverà da sé. A volte è più difficile sognarlo che farlo, ti giuro, frate. Pogba! Pogba! Pogba! Pogba! 4-0 Juve! Buongiorno, buongiorno a tutti. C'è un De Luca particolarmente eccitato quest'oggi in regia. Sono tutti, li saluto, li ringrazio perché c'è molta preoccupazione. Ho capito che c'è grande preoccupazione e c'è anche, vedete, una canzone subito pop perché oggi sarò qui in studio da solo. Ma c'è Carlo Genta già collegato. Dove sei, Carlito? Ti aspettiamo. Domani torni, vero? Domani arrivo, Pierluigi. Domani finalmente arrivo. Domani tonico, tonico. Vabbè, sai tonico. Che qua non è successo niente. Insomma, Higuain, Pogba, piccole cose, insomma, piccole questioni. Sì. Piccolezze, dettagli. Va bene, ti aspettiamo domani. Vuoi salutare Marchetti? Vuoi introdurre Luca Marchetti di Sky? Ma con grande piacere, ciao Luca. Ciao. Che ridi, Marchetti, che ridi. Allora ricordiamo perché... Rido perché giustamente sono preoccupati di Radio Equipato, che sei tu da solo. Sì. E giustamente sono preoccupati. Sono preoccupati. Fra l'altro devo ricordare, no, voglio ricordare 800240024 e anche l'SMS che è 349-238-6666. 238-6666. Sai, come quelli che fanno... Eccezionale. Bene, allora Marchetti, che succede? Fra poco avremo Mughini e Trieste, i due punti di vista, Juve e Napoli su questa vicenda. Qui tutto si combina, no? Higuain e Pogba. Come va a finire? Sì, tutto si combina, si potrebbe anche non combinare, potrebbe anche non combinarsi nulla. Secondo me combinerà tutto. Sicuramente è un fine luglio esplosivo per il mercato, insomma. La Juventus rischia di passare alla storia in questo calciomercato come la squadra che fa la cessione più importante del calciomercato mondiale e di gran lunga l'acquisto più importante del calciomercato italiano, in termini economici, dico, proprio in termini di soldi, in termini di trasferimenti. Riuscirebbe, perché se dovessero incastrarsi queste due cose, riuscirebbe nell'impresa di perdere un campione come Pogba, ma forse di non farlo rimpiangere i suoi tifosi. Ecco, sì, perché insomma sarebbe clamoroso. Ovviamente il trasferimento, il giro di denaro è pazzesco, è mostruoso in termini strettamente economici. Mi chiedono: che ne dite dell'acquisto dell'Udinese d'argentino De Paul? Ne parliamo fra un attimo. Scriveteci, telefonateci, vogliamo sentire il punto di vista dei tifosi del Napoli e della Juve soprattutto, ma anche di tutti gli altri. Ma questa storia del 20% di questa clausola Raiola, cioè come, quali sono? Facciamo un po' i numeri, diamo un po' i numeri sulla trattativa Pogba. Allora, intanto c'è stata questa prima offerta da 101 milioni di euro che la Juventus non ha ritenuto valida e che molto probabilmente cercherà di far alzare allo stesso procuratore Raiola fino a 120. Questo forse anche perché all'interno dell'accordo che era stato fatto quando Pogba è arrivato alla Juventus a parametro zero, perché te lo ricorderai, arrivò proprio dal Manchester, no? Sì. Quando lui era scadenza contratto, Raiola, che aveva visto delle grandissime potenzialità in questo ragazzo, ha detto: va bene, lo porto alla Juventus, ma mi mantengo un 20% sulla futura rivendita del ragazzo. E a questo punto per lui è arrivato il momento di incassare. Quindi, certo, dei soldi che ci saranno nel trasferimento tra la Juventus e il Manchester United, il 20% dovrebbe, mettiamo il condizionale perché poi si può sempre ritrattare il tutto, andare a Raiola, quindi a chi l'ha gestito in questi anni, chi ha creduto in lui sin dall'inizio. Senti, ma non è che con questi soldi poi la Juve va e cambia idea? Perché l'altro giorno Marotta, un po' scocciato, diceva col Napoli non si può trattare, la clausola non la versiamo, e insomma sembrava finita lì, ma è chiaro che non è finita lì. La possibilità che la Juve versi la clausola, come la quantifichiamo in termini percentuali? Fai Mannheimer, fai un Piepoli. Per me è molto alta la possibilità che la Juventus versi la clausola, tant'è vero che si sta pensando in maniera concreta anche non dovesse arrivare la cessione di Pogba alle cifre che vuole la Juventus, perché comunque la Juventus può fare delle cessioni non importanti come quella di Pogba, ma comunque significative, e arrivare almeno alla metà della clausola, che è quello che passerebbe per la prima tranche, perché sai che la clausola di Higuaín, che è da 96.770, è divisibile in due, cioè deve essere pagata in due anni. Questo c'è scritto sul contratto tra Higuaín e il Napoli, quindi la Juventus passerebbe, lo sta per dire, circa 47 milioni e passa. E senti, poi si è parlato molto di questa clausola. Il giocatore non vuole rimanere a Napoli, perché qui ci chiedono, su un anonimo ci chiede, ma il silenzio assordante di Higuaín. Paolo da Enna, non è anonimo, anzi. Ma Higuaín ha parlato, e come? Ha parlato il fratello. Lui potrà sempre tornare indietro rispetto alla presa di posizione del fratello, che però ha parlato in tre continenti, anzi in tre nazioni: Argentina, Francia, Spagna, scusami, e Italia. E ribadendo sempre lo stesso concetto, questo una decina di giorni fa, che lui non avrebbe rinnovato il contratto, che a Napoli non capiva qual era il progetto di De Laurentiis, perché finora non c'era stata quella crescita che gli era stata promessa quando era arrivato Higuaín a Napoli, anche se bisogna dire la verità, il Napoli è cresciuto molto, soprattutto grazie a Higuaín, ma il Napoli è cresciuto molto, è arrivato secondo il campionato. Sì, anche il Napoli ha fatto bene a Higuaín, cioè il discorso è reciproco, sì, Higuaín ha fatto benissimo al Napoli, ma anche il Napoli ha dato a Higuaín la possibilità di fare quello che ha fatto. Senti, stai buono, perché Roberto da Pietra Ligure ci dice: Pogba fenomenale, ma se va via per 120 milioni nessuno potrà lamentarsi, Higuaín garantirebbe il salto di qualità. Gli risponde idealmente Filippo da Napoli. Filippo Eopanare, come stai Filippo? Sì, non voglio proprio parlare di Higuaín. Di che vogliamo parlare? Higuaín, perché queste merdate si fanno sempre a Napoli. Ecco, sì. Sempre a Napoli si fanno queste merdate. Sì, ecco, sì, no, il concetto è chiaro. Dico, voglio dire, ricordiamo che è Confindustria, poi oggi sto da solo, quindi... Sì, comunque, il concetto è chiaro, quindi queste cose... Quindi, sì. Tu fossi De Laurentiis, che faresti, Filippo? Gli darei un calcio nel culo. Ecco, benissimo. Grazie a Filippo da Napoli, squisito. Sentiamo, chiamaci quando vuoi. Beh, mi sembra, insomma, Luca, che questo comunque racconti un po' lo stato d'animo, no? Sì, perché viene giustamente, non te lo so dire, guarda, veramente sarei indeciso, fossi un tifoso napoletano, se definirlo un cuore in caso, come l'ho definito anche lo stesso, un traditore, oppure no. Però questo è il concetto che fa passare il presidente, che Higuaín, se ne vuole andare a Napoli, è un traditore, perché non sposa più il progetto Napoli. Ti fermo, adesso arrivano Mughini e Trieste, stai lì, dove sei esattamente? Dove sei? Dove sei? Al mare, in riva al mare. C'è traffico? Da mangiare, c'è traffico? C'è il traffico, traffico. Sì, un avvio abbastanza scoppiettante, laser, fumogeni e bomboni. Tutti convocati. Sono venuto soltanto a dirvi che non c'è mai stato un contatto tra la Juventus e tra il Napoli, perché la Juventus, cosa che mi ha confermato poi questa mattina, non ha mai avuto l'intenzione di pagare la clausola rescissoria, né noi gliel'abbiamo chiesto. Caro Marotta, ma tu hai pagato la clausola rescissoria? Io non ci penso nemmeno. E allora dimmi. Che non c'è trattativa, ecco, non è possibile trattare, quindi basta. Quindi non siete intenzionati a pagare la clausola rescissoria, no. Questo vuol dire? Sì, sì, sì, assolutamente quindi... sì. Non si può trattare, chiuso l'argomento. Per ora? Per ora. Se fosse Higuaín a volere la Juve? No, perché c'è la volontà, c'è sempre della società. Per sostituire Morata comunque qualcuno serve. Quello senz'altro. Allora, tutta andata storia, dice Pino Daniele, canta Pino Daniele, ci scrivono Andrea da Napoli, vengono a Napoli, diventano star, poi fanno le star perché vogliono andare via, ma di Maradona ce n'è uno solo, lo chiediamo a Anna Trieste. Marchetti, stai lì, eh? Come stai? Adesso ti occupi di cinema, il Giffoni, ma in realtà sei lì in fibrillazione, non stai cercando i Pokémon? No, nessun Pokémon, perché come ho detto, noi, a differenza diciamo degli altri italiani, non teniamo questa capa fresca perché abbiamo una necessità più stringente, che è quella di acchiappare Higuain in questo momento. Ecco. Quindi i Pokémon. Che però, cara Trieste, è lo stesso pensiero che ha in testa Giampiero Mughini. Buongiorno Giampiero. Ciao Luigi. Ecco, hai la capa fresca anche tu, se posso permettermi. Dove sei? Io sono in una località che si chiama Ischia. Stai trattando Higuain. Hai incontrato De Laurentiis. Talvolta qualcuno per strada dice: ci state rubando Higuain. Dico, scusi, lei ha mai visto tutti assieme 94 milioni qualche spicciolo? Cioè, noi se lo prendiamo lo stiamo strapagando. Ecco, la Trieste, lo stiamo strapagando. La Trieste che è notoriamente ricca, di barra, no? Quartiere residenziale. Ecco, tu l'hai visto i 94 milioni? Com'è come cifra? Buona? No, ma allora, guarda, secondo me veramente questo è un discorso che non ha ragion d'essere. Cioè, è proprio una roba metafisica, perché Higuain alla Juve sarebbe tipo un errore del sistema, un fatto tipo Matrix, capito? Non si può verificare. Tutto. È chiaro. Ma il fattore eleganza, me lo spiegate, Giampiero? Perché insomma, De Laurentiis l'altro giorno ha fatto un passaggio interessante, cioè ha detto la Juve è una società elegante, non credo che verrebbe a fare una cosa che la renderebbe così antipatica. Ma io non afferro bene, scusate. Il Napoli ha fissato una barriera. Ha detto: il prezzo di Higuain è tutto al mondo a un prezzo, tutto al mondo a un prezzo, quadro di Picasso, chiunque, il prezzo di Higuain è 94 milioni e passa. Vada bene, stiamo parlando di un giocatore di 28 anni inoltrati, stiamo parlando di un giocatore forse la cui media, non è che tutti gli anni Higuain ha fatto lo spettacolo pazzesco, inaudito dell'anno scorso. Quindi tu prendi a 94 milioni un giocatore formidabile, che però non necessariamente è il giocatore dell'anno scorso, e che ha 28 anni inoltrati. Tu lo faresti? Quindi, questo scambio Pogba non è uno scambio alla pari, ma questo mega giro tu lo faresti fossi la Juve? Ma un attimo, bisogna valutare molte cose. Nel vendere Pogba a 120 milioni di euro e qualche spicciolo, tu fai una plusvalenza che forse nella storia del calcio non c'è stata mai. Bisogna valutare tutti gli aspetti. Tu hai preso un giocatore che stava recluso in uno sgabuzzino, lo hai pagato 0 lire, a parte una commissione al vorace Raiola, e lo hai reso il giocatore più appetito d'Europa. Prendi 120 milioni di euro. Io ritengo più grave nel destino e nella realtà tecnica della Juventus l'uscita dal calcio di Andrea Pirlo. Penso che la Juventus possa vivere senza possa sopravvivere. Torno subito da te, Giampiero. C'è anche Marchetti che fra poco ci dice il Napoli chi eventualmente punta. Ma è arrivato anche il professor Giannino in questo processo di granatizzazione del mondo. Cioè, Ventura diventa commissario tecnico della nazionale, Cairo scala il Corriere della Sera. Quindi ormai il mondo è granata, possiamo dirlo. Tu sei granata. Possiamo dirlo? Sì, io sono granata da sempre. Dall'esistenza del grande Torino, poi sì. Torino è la Fiat, la casa editrice Einaudi, sì. Bene o male Antonio Gramsci che fonda l'Ordine Nuovo, insomma non vogliamo scherzare. Ecco, no, lo chiedevo anche a Giannino, però era interessante dirlo anche da Mughini. Giannino, prego. Beh, non c'è dubbio che voglio dire, la lezione che ha dato Cairo a quello che restava dei vecchi salotti italiani della finanza è stata clamorosa, perché come si vede per una volta che si fa, e si fa per un grandissimo gruppo editoriale, una gara aperta sul mercato. Per sì, il ma non controllo è che le sospende per RCS e non per il Torino, non sei preoccupato? Dunque, preso di AIC, per RCS fa, okay. Ti garantisco che tutti, conoscendo Cairo, sanno che la prima cosa che farà sarà feroci risparmi. Cioè, tutti i dirigenti della holding RCS gli faccio i miei auguri. Perché credo i taxi, che uno per uno, no, non solo i taxi, anche personalmente come posizione, la holding verrà sbaraccata. Quindi, innanzitutto farà questo. E attenzione, quando entra nelle imprese editoriali non caccia via gli operativi, i direttori, quindi è una persona che agisce con misura. Da questo punto di vista Cairo è una grande boccata d'aria e non credo che questo significhi per il Torino peggio. Da Granata, sei preoccupato se la Juve fa questo scambio? Ci guadagna o ci rimette la Juve con Higuain, Pogba? Io mi schiero con Mughini, siccome quello che seguo è la serietà di come si è comportata finanziariamente questa gestione della Juventus in questi anni, credo che la logica, poi il calcio lo sapete meglio di me lo insegnate, non segue sempre la logica, ma la logica mi porterebbe più a escludere questo scambio. Questo scambio. Per gli anni, per il fatto che tra due anni, lo sapete meglio di me, il cartellino vale scade, quel che vale, quindi, scade. Quindi sei... Mentre non sottovaluterei l'intelligenza del presidente del Napoli, che in realtà due giorni fa ha dato delle coordinate, quelle che ho capito io, cioè disposto a fare anche una telefonata al presidente della Juventus dicendo: non mi puoi fare questo affronto diretto, fatto di eleganza. Se poi puoi fare il ponte per una cessione sull'estero che mi consenta di dire, perché lui ha sottolineato, la Juventus non fa queste cose, è un club di grande levatura eccetera, sull'estero è un conto, quella è un'altra partita rispetto allo scambio di cui state parlando. Assolutamente, però. Assolutamente, sempre lucido anche nel calcio, professor Giannino. Marchetti, sei lì, sei sempre lì in spiaggia? Come va a finire? Che sensazione hai? Dai, fai un pronostico, sbilanciati. Sensazione che si farà questa roba qua, cioè con Pogba a Manchester e Higuaín alla Juventus, perché la Juventus ci sta lavorando da molto tempo. È giustissimo quello che è stato detto finora sia da Mourinho che da Giannino, perché è un investimento che la Juventus in animo non ce l'ha. Non spendi quasi 100 milioni di euro per un giocatore che ha 28 anni, però l'obiettivo è vincere la Champions, e allora forse questo è il sacrificio per andare a vincere la Champions. Ecco, questo è il sacrificio per provare a alzare la coppa con le grandi orecchie. Chi cerca il Napoli come alternativa nel caso a Higuaín, e chi cerca la Juve come alternativa a Pogba, anche se la Juve si è portata avanti perché ha preso Pjanic, c'è Piazza, insomma c'è, è un po' più avanti, no? Ma il Napoli chi prende? Su chi va? Piazza è attaccante e la Juventus è centrocampo punta Matic del Chelsea, se dovesse partire Pogba. Se va via Higuaín, sono tre i nomi, sono Zaza, sono Morata e Slimani. Sì. Ma teniamo conto che ci sono poi 94 milioni rotti da spendere, quindi non si sostituisce Higuaín, che è un giocatore straordinario, con un altro giocatore, perché il paragone sarà sicuramente fallimentare. Quindi si costruirà una squadra più forte, quindi arriverà magari un difensore in più, due centrocampisti in più. I nomi sono quelli che abbiamo fatto finora. Che attaccante vorresti, Trieste? Chi vorresti? Icardi, Bacca? No, allora io non mi pongo proprio il problema, perché quello che volevo dire è che è chiaro che quando sembra, diciamo, dopo che ha parlato il presidente, adesso diciamo no, ma Higuaín non conviene, che lo compriamo a fare, cioè quando la gatta non arriva all'ardo dice che è feta, no? Quindi non va bene più Higuaín, la Juve non vuole più spendere questi soldi. Quindi secondo me Higuaín non si muove da Napoli, o comunque no, si muove da Napoli ma non per andare a Torino, quindi io non me lo pongo questo problema ancora. Nel caso, ove mai Vandanara mi va bene. Esatto. Vandanara potrebbe essere apprezzabile. Mughini, l'anno prossimo non è che c'è il rischio che alla terza giornata di campionato chiudiamo Tiki-Taka per manifesta superiorità bianconera? No. Ma non è, no. Ma il calcio non è così. Vabbè, tranquillo, basta. Il calcio è una lotta di 11 energumeni contro altri 11 energumeni che dura ogni volta 90-95 minuti. Non esiste uno sport come il calcio. Cioè uno sport in cui il risultato è ambiguo, ma lo si è visto agli europei. Tutti i risultati agli europei erano ambigui sino a 10 minuti dal termine. Dai, va bene. Che mangia Ischia? Il coniglio all'ischitana l'hai mangiato? Io non amo queste definizioni, perché penso che i coniglietti siano una... Sì. Mangio il giusto, poi sai che io non metto... No, insomma, tra i piaceri della vita il cibo è molto importante. Ecco, ti ringrazio di queste parole. Grazie a Giampiero Mughini. Evviva, ragazzi. Grazie a Giampiero Mughini. Anna, chiedo insomma che giornate sono. Tu stai facendo lì Giffoni, stai cercando di non pensarci. Sì, siamo al Giffoni, chiaramente anche qui si parla. Solo di Higuaín. Sì, è chiaro, anche ieri con Cantone, con gli attori di Gomorra, insomma, ci stiamo. Di Gomorra, com'è? Di? Gomorra. Ma perché una O? Gomorra, no. Ma senti, ma voi, scusa, a Roma voi, no, utilizzate la vostra inflessione. Noi a Napoli ne abbiamo un'altra che è fra l'altro è fantastica. Sì, vabbè, esatto, la puoi dire anche Gomorra. Senti, smettetela con la storia di Maradona fedele al Napoli, ci scrivono. Vi dimenticate che voleva andare al Marsiglia ed è stato trattenuto a forza, ci scrive Joe. De Luca indignato per queste... Ma chi lo scrive? È uno, 339, non posso dare il numero. Ma sarà un tifoso della Juve, perché tu devi sapere che i tifosi della Juve, che c'è Mughini che può confermare, sono un po' come la coscienza di Hegel, hanno bisogno sempre della negazione dell'altro per affermarsi. Noi invece siamo genti, diciamo, epicurei, ce ne fotte proprio. Ecco, siamo andando troppo alti, però. No, beh, devo dire che la scuola filosofica di appartenenza è meravigliosa, devo dire. Gheriani. Però ti devo invitare a riflettere, perché il gusto per il concreto che la Juve ha sempre messo nella sua storia, non so se la renda così estranea alla tradizione epicurea, cioè secondo me sono un po' concreti e pratici, cioè filosofia della prassi, quelli sono... Credo che Mughini direbbe che sono più kantiani che hegeliani, insomma. Ma con la filosofia della praxi mi stai andando in Marx. Io ho scritto ragazzi, ma tutti convocati, già qua ci scrivono che oggi sembra la zanzara. Stai attenta che la Fiat l'ha saputa interpretare a proprio vantaggio il confronto anche antagonista. Anche l'alienazione di Marx la Fiat ha saputo interpretare. Va bene, invece Lele, vi interrompo Hegel e Marx. Lele dice: Higuain alla Juve, soldi buttati, vecchio e col ginocchio così così. Ci sei ancora, Marchetti? Sì. Che sì, fa che Andreva? Su Hegel, che fa che Andreva? Andreva resiste per andare all'Inter. Resiste, anche a me risulta questa cosa, anche se Lotito preferisce il Napoli. Offerta 25-26 milioni. Ti piace che Andreva? Napoli non credo. Trieste, ti piace? Napoli non è la soluzione preferita di Andreva e quindi Lotito quei 24 milioni che offre il Napoli non li prenderà. Perfetto, quindi Andreva andrà all'Inter. Va bene, grazie Trieste, grazie ovviamente grazie a Marchetti. Buona giornata. Mi commenti un Ventura al volo, abbiamo tempo? Sì, sentiamo, è davvero granata Giannino, sentiamo un Ventura di ieri, la granatizzazione dell'Italia. No, non sono emozionato, sono soprattutto felice, se devo essere sincero, perché purtroppo per me non ho più l'età tanto per emozionarmi, ma come ho detto prima sono felice e orgoglioso, questo sì. Ecco, felice e orgoglioso, tu da tifoso Granata sei orgoglioso di... Assolutamente sì. Di avere il CT adesso. È stato un ciclo che chi critica non si rende conto di qual era il materiale che aveva a disposizione e la lesina, che è stata una lesina iper moltiplicatrice di risorse, perché la lesina usata negli acquisti dal Torino, non te la devo dire a te, no, è stata fantastica rispetto ai risultati. I risultati erano all'altezza di una dotazione patrimoniale un po' limitata. La mia chiave è questa. È chiaro che non c'è paragone rispetto all'assassinio morale con cui Conte motiva, voglio dire, le sue squadre, ma i risultati, nel tirare fuori risultati strepitosi con un altro criterio, avendo a disposizione non eccellenze di Ventura, parla a suo favore. Quindi io voto a favore di questa cosa. Il Torino, è chiaro, ha portato risultati non straordinari, ma rispetto a chi c'era prima, miracoli. E io credo che un po' la nazionale, in questa fila di coerenza con quel Torino, magari si offende chi pensa che sia chissà come strepitosa, ci sta. Ulisse dice: Giannino, prossimo direttore del Corriere della Sera. Io invece lo invito a Tiki Taka, oltre che a tutti i convocati. 349-238-6666 per i messaggi e ovviamente 800-24-0024 le borse. Come vanno, Giannino? Tu già lo sai, come vanno le borse oggi? Le borse vanno così, cos'ha? Vediamo se è vero, vediamo se Giannino ha ragione. A dire la verità non ci sono questi grandi segnali sui mercati per dire ma sentiamole le borse, adesso vogliamo fare il commento alle borse. Le borse, seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Tutti convocati. Ambro, come va? Tutto a posto, voi? Tutto a posto, si sta per addormentare il bambino? Perché sappiamo c'è un parliamo a bassa voce. No, uno si è addormentato, no, va bene lo stesso. Ecco, uno è con me che aspetta. Massimo Ambrosini, grande concerto di Springsteen l'altra sera, tu hai addirittura il tatuaggio di Born to Run, Vuoi dirci cos'è Springsteen nella tua vita? Poi parliamo di Milan. Cos'è? È una bella emozione, una grande emozione, da 10 anni che... 10 anni che andiamo in giro, che sei lista di competizioni che stiamo andando a vedere, però è una cosa straordinaria, dal mio punto di vista è una cosa straordinaria. E molti mi chiedono: ma perché continui a vederlo? Io sono arrivato quasi a 30 e ti dico che prenderei la macchina anche domani e andrei a vederne un altro, però. Sì, anche perché c'è, per esempio, c'è Zurigo 31 luglio che non è male. Bravo, ecco. Bravissimo, hai centrato proprio. A proposito di cos'è, vabbè, magari ci sentiamo e vediamo se fare una follia. E invece il Milan che fa? Perché qua Born to Run si adatta anche al Milan, che insomma deve correre, ma proprio correre parecchio. Insomma. Sì. Che faresti? Che idea ti sei fatto? Io mi sono fatto un'idea che per il bene del Milan sia meglio che succeda quello che sembra sia per succedere. Cioè che il presidente molli la presa, arrivino delle persone che magari hanno una forza finanziaria diversa, ma a mio avviso non basterebbe solo quello, ma poi ci vogliono le idee. Vogliono le idee che il Milan ha sempre avuto, e io penso che oltre ai soldi che arriveranno ci vogliono, diciamo, delle persone in grado di poterli spendere bene. Insomma, Galliani ha mostrato che quando ha un portafoglio decente in mano qualche idea l'ha tirata fuori, ora bisognerà vedere se avrà, diciamo, libertà di azione o meno. Senti, Montella è l'uomo giusto, intanto vi ricordo 800240024, sta arrivando in tantissimi, grazie, e ovviamente fra poco apriamo le linee. Montella sembra l'uomo giusto per il Milan dal punto di vista, insomma, di concezione del calcio. Ha sempre giocato un calcio di possesso palla, un calcio bello, estetico. Ma, sì, a livello di, insomma, di mentalità o di, anche di volontà presidenziale, diciamo, Montella è un allenatore che potrebbe essere giusto, però perché comunque ha la voglia, la personalità per voler dare un'impronta alla propria squadra, che deve, insomma, affrontare qualunque tipo di formazione con l'intento di comandare il gioco verso il presidente. Però, insomma, negli ultimi anni, insomma, il Milan ha cambiato talmente tanti allenatori che ogni volta che si cambiava si diceva questo sembra possa essere l'uomo giusto. In realtà ci vuole tempo, probabilmente pazienza, e ci vogliono dei giocatori, perché certo, comunque il Milan ha bisogno di giocatori, perché il principio però è sempre quello: bisognerà capire una nuova presidenza o insomma, quali sono gli obiettivi, e dichiararlo in maniera abbastanza esplicita. Insomma, se pensi che in mezza sessione di mercato, perché il Milan a mezza sessione di mercato, costruire una squadra che possa vincere il campionato, penso sia una cosa molto difficile da realizzare. Assolutamente. Senti, la Juve fa bene a fare, ammesso che lo faccia, questo giro clamoroso con Pogba in uscita e Higuain in arrivo? Io penso che abbia più che un senso logico, perché vai a finalizzare una cessione di un giocatore straordinario da cui hai ricevuto tantissimo. È chiaro, poi non è detto che tu non possa riceverlo anche in futuro, però insomma, andare a ottimizzare sulle cifre che ci sono, e avendo l'opportunità di andare a prendere il centravanti più forte del mondo, e avendo anche nelle casse un'altra trentina di milioni da andare a spendere. Però il Wayne ha un'età differente da Pogba, ma non è un giocatore logoro, insomma. Certo. Io insomma, una sua logica mi ha visto. E il Napoli chi deve prendere in caso? Icardi, Bacca, puntare su Gabbiadini, Immobile? Ma chiunque andrà a sostituire Higuain sarà destinato a soffrire, non lo so, un'idea non me la sono fatta, cioè, andare a sostituire Higuain o vai a prendere Lewandowski per prendere, ma certo. È difficile che riesci ad arrivare a quello, quindi potrà rinforzarti andando a prendere, insomma, un nome di un certo livello, magari non solo come centrocampo, insomma, se ti danno 95 milioni di euro penso che qualcuno in giro da prendere anche in difesa o centrocampo pronti. Assolutamente, salutami ragazzi, poi un abbraccio. Se vogliamo fare questa cosa al 31, parliamone, ecco, diciamo il 31 a Zurigo. Hai vissuto quello che ti abbiamo combinato? Sì. Vabbè, ma adesso io spero solo che i video, ho paura di trovare su YouTube delle cose compromettenti, ma spero che sia tutto a posto. Grazie a Massimo Ambrosini, buonanotte Fiorellino. Ciao. Ecco, sì, che si sta per addormentare. 800240024, ci sono Michele da Bologna, Francesco da Latina. Partiamo da Michele, come va? Ciao Pardo, buongiorno. Virtus o Fortitudo? Bene. Domanda decisiva, dirimente. Virtus o Fortitudo? Ma Fortitudo ovviamente. Va bene. La squadra di Bologna è Fortitudo. Vabbè, adesso paghiamo un'altra della Virtus. Vabbè. Prego. Niente, la mia opinione è una più originale, perché è stata già espressa da esimi tuoi collaboratori, anzi ospiti. Però vorrei dire che anche secondo me Higuain serve alla Juve per vincere la Champions. Ovviamente si mantiene la forma attuale. E che Pogba sicuramente deve ringraziare la Juve per la sua grossa crescita come atleta, come sportivo, e soprattutto secondo me il suo valore aumentato dopo gli europei. Ecco, il valore aumentato dopo gli europei. Stai lì, perché ti faccio interagire con Francesco da Latin, che penso... Dov'è Latin? Diciamolo a quei pochi... Latina. Ah, Latina, infatti mi hanno scritto Latina, questo è De Luca. Parlo. Devi capire che De Luca, da quando c'è questa cosa di Higuain, ha perso proprio ormai... Ha problemi di spelling. Latina, quindi insomma la patria di Calcutta, no? Esatto, ecco. Esatto. Allora io dico che voglio parlare di Higuain, visto che si mangia Higuain, le lettere. Bravo Francesco, dimmi. Ok, intanto una piccola suggestione. Circa una settimana e mezza fa uscì fuori che a Higuain era interessato l'Arsenal. Sembra che uscì fuori questa notizia e l'entourage di Wenger si fece un po', diciamo, interdetto quantomeno, perché uscì fuori questa notizia. Magicamente qualche giorno dopo la Juve tira, sembra abbia la disponibilità di 94.700.000 euro, una cifra enorme per un giocatore fortissimo, ma 28 anni e che difficilmente credo possa ripetere la stagione epica che ha vissuto. Quindi secondo te è troppo, la clausola non va pagata? Secondo me non va pagata e secondo me è stata una mossa di De Laurentiis, perché se l'avesse venduto subito all'estero sarebbe stato il cattivo, il traditore per Napoli. Adesso con lo spauracchio Juventus, per la possibilità che potesse venire ceduto la Juventus, se adesso lo vende, che so, all'Arsenal, al Paris Saint-Germain, passa da eroe, quindi ecco, non più da traditore, ma e non portando. Quindi tu pensi che lo venderà all'estero alla fine? Lo venderà all'estero. Non sullo scudo, ma tornerà con lo scudo, come visto che state citando filosofia di greci. Sì, ma noi l'alto e il basso, capito? Per esempio su Calcutta, che per carità è altissimo, però fino a un certo punto, che brano vuoi sentire adesso dopo il traffico? Guarda, io vorrei sentire, invece che Calcutta, una estrapolazione di un film che fa ricordare Latina, che è Paparazzi. Quindi se mi metti sempre il passo della Latina, a me mi fai morire. Ah, vabbè, adesso vediamo. C'ho De Luca. Ah, De Luca ha già fatto di sì, ma che è una mente superiore? Sì, sta tranquillo. Ha già preso tutto. State buono, De Luca. State buono. De Luca, sex symbol. Poi adesso vanno le TV napoletane. Ormai anche dei grandissimi riscontri. C'è ancora Michele da Bologna, lo salutiamo. Marco dalla provincia di Ascoli Piceno. Marco, salve Bardo. Buon pomeriggio. Come andiamo? Bene. Volevo intervenire sull'affare Higuain. Secondo me la Juve sbaglierebbe a comprare Higuain a 94 milioni, ma perché? C'è un motivo. Prima di tutto non c'ha 28 anni, ce n'ha 29 e nel 2017 ne compie 30. Poi seconda cosa, De Laurentiis è l'ultimo mercato che c'è occasione di vendere Higuain, poi un altro anno scade il contratto. Quindi perché la Juve dovrebbe andare a spendere 94 milioni quando magari gli può fare una proposta a 60 e magari dargli un giocatore? Però 60 oggi non lo prende, forse lo prende fra un anno. No, ma fra un anno neanche a 60, perché fra un anno scade il contratto, cioè a 30 anni lo prenderebbe a 30-40, non a 60. Quindi come va a finire? Secondo me lo venderanno gli ultimi 2-3 giorni di mercato, non so se alla Juventus, a 60-70 milioni, perché poi i soldi sono soldi, Napoli campa i soldi, quindi cioè perché devi buttare al cestino 60-70 milioni invece, cioè perché ne vuoi prendere 94? Quando poi un altro anno, quando ti daranno? 30, 40? Hai perso dei soldi, hai perso tanti soldi. So soldi, come dice Maccio Capatonda. Maccio Capatonda, cioè so soldi. Cioè, tra Koulibaly e Higuain potrebbe incassare 100 milioni o 110 milioni, come dicevano dell'Everton che lo voleva. Perché deve buttarsi i soldi, De Laurentiis, che è uno attaccato ai soldi? Ma sono tutti più o meno attaccati ai soldi, ma giustamente, legittimamente, perché le società devono muoversi anche con dei principi di economicità. Fra poco avremo Zampini, un altro punto di vista, Doc che sta per arrivare. Ce l'hai il numero di Luca o te lo devo mandare? Ce l'ha tutto, quante cose ce l'ha. Fuori Pogba, dentro Icardi, 2-3 centrocampisti, ci scrive Marcello dalla provincia di Bologna. Scusate, ma perché si parla che la Juve per pagare la clausola scissoria di Higuain deve vendere giocatori per incassare i 94,7 quando la clausola è pagabile in due rate? Perché comunque, anche se è pagabile in due rate, rispondo al nostro amico ascoltatore, è chiaro che l'esborso è quello, quindi poi puoi chiaramente pagare a rate le cose, ma i soldi per pagarle devi averceli. Ma è giusto, si può sicuramente dilazionare ed è quello che la Juve probabilmente ha in testa in queste ore. È il momento del traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Higuain oggi sta a Napoli, gioca bene, è un calciatore di Napoli, anzi Gonzalo resta a Napoli, ti conviene, perché se vai alla Juventus i napoletani ti secciano. Se deve andare, perché vuole andare con la Juve, allora la Juve non la possiamo vedere, sempre forza Napoli, se deve andare, vai! Facciamo una scommessa, si vede per tutta l'Italia questo, in Rai 1, vabbè, se Higuain va alla Juve e segna più di 15 gol, c'è mio nipote e il mio erede questo qui. Mi dai l'uccello. Che non serve più! Non ti preoccupare! Che non serve più! Perché Higuain ha segnato 36 gol perché era nel Napoli che giocavano tutti per lui. Ma non che può strunzis, se noi e se ne va più, ce ne pigliamo nato meglio, perché tutti quelli che vengono a Napoli vengono che in mutante e se ne vanno in pantaloncini. Io orfano di Maradona, figuriamoci se mi importa di Cavani, Lavezzi, Higuain e tutti i resti appresso. Niente, per il trasferimento alla Juve per un napoletano è proprio un tradimento, è come se la moglie lo tradisse. Ma solo si è detto sì alla Juve se ne deve andare, a prescindere, va o non va alla Juve, ma se ne deve andare, perché noi l'abbiamo fatto diventare uomo, era un pacco quando abbiamo comprato la Real Madrid. Nessuno immaginava dare a Spagna, forse arrivata a Napoli una carogna. Lui dammo a terre ma non si degna, fai schifo ogni zoccola e fogna, da mare rassa tanta sguazzata. Eccoci, ecco, avete visto, ma è già chi canta questa canzone, De Luca? Autore, però ti ricordo che hai una missione, eh? Io non ho capito che devi fare su Latina. Ah, ma non l'hai capito neanche tu, l'hai capito? Alle tre. Allora, l'ascoltatore di Latina ci può ascoltare. Invitiamo ovviamente quel signore che voleva tagliarsi, insomma, l'organo, di non farlo. Ecco, mi sembra una presa di posizione eccessiva, sia pure, insomma, vista l'importanza di Wade, però vabbè, insomma, non mi sembra il caso. Comunque poi ognuno fa quello che gli pare. Facciamo così: portate a Napoli Buffon, Bonucci, Marchisio, Dybala e 20 milioni e forse ci pensiamo a darvi il pipita, Paolo. Chissà se Zampini è d'accordo. Zampins, dica. Ciao, sì, certo, come no, è chiaro, sì. Li eliminiamo tutti e poi prendiamo i Wade. Certo. Ecco, allora, aspetta un attimo, adesso vi faccio sentire Giorgio D'Alecco. Vi ricordo 800240024. Giorgio D'Alecco, prego. Ciao, Pardo. Ascolta, io ti offro un'altra prospettiva della situazione. Offrimela. Per me Pogba non vale 120 milioni, ne vale solo 80 più o meno, no? Allora se tu vendi oggi Pogba 120, ne guadagni 40 in più. Quei 40 in più messi sui 90 di Higuain, Higuain mi costa solo 50. Se lo fa quest'anno la Juventus ci riesce, l'anno prossimo non lo vende più Pogba 120. Zampini, che rispondiamo? Cioè, che rispondi? No, non ho capito perché. Cioè, Pogba, secondo me, capisco il contrario. Cioè, Higuain tra un anno varrà la metà, forse, dei 94 milioni per ragioni di età. Non per altro. Pogba, che ne ha 23, non vedo perché quest'anno dovrebbe valere il doppio dell'anno prossimo. Anzi, cioè, il mio timore è proprio questo, che gli inglesi, ormai questo non si calcola, gli inglesi hanno una quantità sterminata di soldi. Ed è stata poco valutata questa questione, secondo me, sui media italiani, non so se internazionali. I prezzi che noi consideriamo folli tra un anno magari invece saranno bassi, quindi io lo terrei un altro anno molto volentieri Pogba, ho molti dubbi che l'anno prossimo costi meno. Perché in effetti questo è successo anche in Italia, secondo me è anche legato al contratto comunque ricco dei diritti televisivi dallo scorso anno. Improvvisamente i prezzi sono impennati, in più c'è l'effetto inflattivo che arriva dall'Inghilterra, quindi il ragionamento è giusto. Sei a Roma, Zampini? Sì, sono a Roma. Anche caldo. Mario che ci ascolta, Mario da Roma, prego Mario. Ciao, io volevo dire da tifoso del Napoli che secondo me Higuain va venduto, così come va venduto anche Koulibaly, perché se queste sono le quotazioni 94 più 50, parliamo praticamente del fatturato del Napoli, e soprattutto da tifosi del Napoli, dopo Cavani e dopo Higuain abbiamo capito che solo con il bomber non si vince, e quindi certo, questi soldi ci possono servire per costruire una squadra che possa finalmente competere. Come si vive a Roma da tifoso del Napoli? Male, soprattutto diciamo quando la Roma qualche annetto fa andava bene, però negli ultimi anni ci stiamo divertendo e devo dire che grazie sempre ai Higuain ricordo una bellissima Napoli-Roma 1-0 dove penso di averli presi in giro per settimane. Diciamo sì, che essendoci tanti napoletani a Roma è diventato... Che è caduto. Invece Zampini, da juventino a Roma come si vive? No, si vive bene, dai, siamo tanti anche noi e poi con gli amici romanisti soprattutto, anche razziali che sono un po' di meno, ma abbiamo buoni rapporti tutto sommato, diciamo ecco. Così va. Tu sai che Luca Zampini da Verona dice: non sopporto di avere un mio omonimo juventino, te lo devo segnalare perché... Ma dai Luca, ma che problema c'è? Manda un messaggio... Saremo pure parenti, mezzi parenti, mamma mia. Senti, ma l'anno prossimo se la Juve prende Higuain il campionato si gioca oppure... viene fatto per decreto, viene assegnato. Ma quest'anno quella che aveva Higuain non ha vinto, quindi secondo me è più importante il resto della squadra che abbiamo. Ricordiamo che la Juve ha perso Cuadrado, Morata, Pogba, e se Pogba si andrà via, intendo dire. E insomma, cessioni ce ne sono state anche importanti, cessioni o comunque diciamo abbiamo dovuto lasciare dei giocatori che non erano del tutto nostri. Quindi sicuramente già rimpiazzati, Benatia per Caceres, Dani Alves per Cuadrado, Piazza arriverà per Morata, diciamo in qualche modo, anche se non esattamente quel ruolo, Pjanic forse per Pogba, arriveranno altri, Però io non do nulla per scontato, tantomeno il sesto scudetto di fila, che secondo me sarebbe un'impresa leggendaria. Sarebbe clamoroso. Ci dice Mario da Castelfranco Veneto: vendere Pogba a 125 sarebbe il colpo del secolo, usarne 94 per pagare Higuain sarebbe peggio dello United, che ne spende 125 per Pogba. E vabbè, insomma, punti di vista, dibattito eterno. Leonardo dalla provincia di Venezia. Dove sei, Leonardo? Ci sono. Dove sei? A Spinea? Dove sei? Dai. Allora, sono di Verona, ma sono a Jesolo. Mare con quattro amici, sì. E stavamo appunto parlando di mercato. Tutti maschi? No, due maschi e due ragazze. Siete due coppie oppure solo amicizia? Due coppie. Ufficiali? Tra l'altro, la prima domanda riguarda il mercato, la seconda domanda culinaria per te. Sì. Visto che sei esperto. Sì. Vogliamo sapere, so che hai postato, partiamo dal benessere, dai, quindi spaghetti alle vongole, so che hai postato l'altro giorno, abbiamo assaggiato anche oggi noi con le cozze, come vedi, meglio cozze o vongole? Questi sono i grandi temi che dividono il paese in questo momento di difficoltà dell'Europa, in pieno Brexit, con le minacce terroristiche, diciamo, ci si interroga su questi temi. Io sono per la vongola in bianco, se proprio devo essere sincero. Però lì eravamo su una barchetta e c'era uno che ha fatto questa pasta alle cozze un po' acquosa ma meravigliosa, quindi lo ringraziamo, anzi, okay. Mario, domanda lo seria, saluto. Invece, sì. Domanda seria: come verrà ridisegnato il centrocampo della Juve se va via Pogba? Perché è vero che se va via Pogba arriva Higuain, ma a centrocampo praticamente con Marchisio Auster rimane solo Chedira, che tra l'altro è... Sì, poi a un certo punto torna Marchisio. Zampini, come lo ridisegni questo centrocampo della Juve? Ma intanto credo che noi romani siamo proprio per le vongole, secondo me, rispetto alle cose, un po' più abituati. Anche la tellina, anche esatto, la tellina. Orgoglio tellina. Questo mi sembra il tema predominante. Sì, poi sì, passando invece a quisquiglie calcistiche, la Juve è chiaro che comprerebbe altro, avrebbe molti soldi, al di là di Higuain, che prescinde anche dal discorso Pogba, secondo me in parte. La Juve altro prenderà. Ricordiamo che un mese fa noi avevamo quasi per scontato il doppio colpo Dani Alves Mascherano, poi Mascherano è sparito anche perché Barcellona la vuole tenere. Però secondo me è un nome che la Juve non ha dimenticato, poi sarà molto complicato arrivarci. Ho il sospetto che non esca il nome di chi comprerà la Juve tra i classici che sto leggendo oggi, per carità, Brozovic, Kovacic, Matic. Sospetto sarà qualcun altro, oltre alla possibilità eterna di prendere Witzel, questo Witzel che gira, fino a poi finirà da qualcuno, che costa 18-20 milioni e secondo me sarà... potrebbe essere uno dei due centrocampisti. Se no fa la fine della Sora Camilla, come diciamo, esatto, a Roma. Cioè, esatto. Tutti lo vogliono, nessuno lo piglia. Piero dalla provincia di Milano. Buongiorno. Come va? È mica male. Senta, premetto che io sono juventino. Sì. Sentendo queste cifre, la cifra di Pogba, secondo me, è folle. L'eventuale acquisto di Higuain pagando la clausola, secondo me è una cosa che va oltre la follia, non so come definirlo. È oltre la follia, Zampini? Guarda, è molto caro, io ho grande incertezza. È anche vero che alla Juve sanno fare molto bene i loro calcoli e avranno calcolato che per plusvalenze, anche se non è lo stesso tipo di, sappiamo bene la differenza, insomma, tra la plusvalenza o il conto, il peso annuale che hanno gli ingaggi e tutto il resto. Sul peso però è chiaro che se tu fai cassa con un prezzo insensato, poi probabilmente puoi spendere più altrove. E io credo che Higuain, che oggi ha 28 anni e mezzo, finirebbe il contratto a 32 e mezzo, non a 36 come sembra ora mentre ne parliamo. Potrebbe essere una follia che lo avrebbe un senso. Poi mi devo augurare che la Juve, come per ora ho dimostrato, sappiano fare i conti. Senti, se non arrivasse Higuain, chi ti piacerebbe? Cioè, se, insomma, perché sai che Icardi? Icardi non mi dispiacerebbe, ma credo che l'Inter non lo dia alla Juve, per quanto non lottino per lo stesso obiettivo finale in campionato, credo che alla Juve non lo dia. E Cavani potrebbe essere un altro buon nome, ma stesse condizioni di Higuain, costerà poco meno e la stessa età. Quindi non so, Benzema è un altro in campo fortissimo, fuori diciamo qualche piccola riserva ce l'avrei. Non so dirti sinceramente chi prenderei per un super big. Ti posso dire che a me piace quando la Juve li scopre i grandi giocatori, gli Pogba, gli Zidane, quando la Juve arriva un attimo prima. Non sono abituato a vedere la Juve spendere il campione più affermato a 29 anni. Ma è un atto poco elegante, come ha detto De Laurentiis. Sarebbe un atto poco elegante. Fra l'altro, ricordiamo, alle 15:30 parla De Laurentiis e sarà importante ovviamente ascoltarlo. Questo non direi sinceramente, cioè, è poco elegante magari, e neanche lo è secondo me, quando si strappa qualcuno a parametro zero che non rinnova. Se va a pagare 94 milioni clausola messa da loro e li paghi tutti interi, cioè mi pare che sia poco elegante chiederceli tutti, semmai, però non farci lo sconto, dici. certo che esatto, cioè è elegante lui allora. Va bene Zampini, va bene, mi raccomando, mi saluti gli amici greci, quando va a trovarli, paracalò, partiamo dalla signorina Ria, ciao Zampini. Perché De Luca adesso improvvisamente si è calmato? Per 5 minuti faceva dei 30 secondi. Allora ricordiamo che potete continuare a mandarci i messaggi al 349 238 6666, poi vi ricordiamo che potete chiamarci 800 24 00 24, parleremo ovviamente molto di Inter e poi di tutto il resto del mercato e anche degli altri sport che propongono tante cose. De Luca ad esempio sta mimando il Tour de France, parleremo soprattutto di Tour de France, sarà proprio un Tour de Force, Tour de France. Adesso c'è il GR delle 15, ecco. Solo chiacchiere, solo mare di ciacole, chiamiamole ciacole per essere educati. Tutti convocati. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Si ricomincia! Tutti convocati. Pardo, noi mandiamo i messaggi, ma se tu non li leggi, che siamo a scrivere a fare, mi dice Franklin, hai ragione, ma siete tanti, siete una marea. Per esempio mi dicono che gli uomini di ADL sono stati a Barcellona per sondare i malumori della famiglia Messi e preparare un'operazione cinematografica. De Luca, che c'è? Un attacco tutto a posto? È un momento di tachicardia per De Luca. Mi risulta che ieri Berlusconi fosse alla Pinetina. Beh, questo mi sembra ormai proprio. Ecco, capisci anche perché alcuni messaggi non vengono letti. Bene, grazie a Davide. Andiamo in Cina a fare i portaborse di Pelé e lasciamoci alle spalle tutta sta caciara su Higuain e Pogba. Potrebbe essere un'idea. La Cina è vicina, lo sappiamo bene. Ci sono Fabio e Piero, fra poco arriva Evaristo Beccalossi, parliamo di Inter, stiamo aspettando anche altri ospiti, sorprese, eccezionali, novità. Ah, scusate, scusa Fabio, perché prima c'è un messaggio di Nico che è per le linguine con telline bianche e zuppa di cozza piccanti. Che cos'è? Ah, questo è Calcutta, sì, perché De Luca ha fatto, lo dico all'ascoltatore di Latina, ha fatto così il figo che aveva capito, invece non aveva capito che cosa voleva, che cosa volevi sentire, e quindi faccio sentire un pezzettino di Calcutta. Fabio, provincia di Salerno. Nocera inferiore, per precisione. Chiedo scusa, comunque, qua me l'hai scritto. Sì. La no, gloriosa nocerina. Io volevo consigliare a De Laurentiis di portarcelo in limousine a Torino, Higuain, facendosi date Rugani, Pereira, Mandžukić e 40 milioni di euro. Rugani, Pereira, Mandžukić e 40. Anche Mandžukić potrebbe perché diventare. Perché gli attaccanti che vengono a Napoli danno sempre qualcosa in più. Quindi ben venga a venderlo da Higuain e ne prendiamo un altro e lo rendiamo ancora più forte. Ecco, perfetto, molto chiaro. Piero dalla provincia di Fermo. Sì, buonasera. Buonasera Pardo, grazie alla convocazione. Come andiamo? Come stai? Bene, benissimo. Sì, bene. No, dicevo questo, non potrebbe essere invece una manovra della Juve, una manovra di disturbo? Perché Higuain già in passato qualche mal di pancia l'ha dimostrato, no? Sì. È reale secondo te l'interesse della Juve verso il Napoli o magari sta montando un caso per costringere il Napoli, in ogni caso gli ultimi giorni di mercato, a venderlo magari all'estero, un'altra squadra, e così non rafforzandosi con Higuain ma nel contempo indebolendo il Napoli? Potrebbe essere una manovra di disturbo? Può essere un disturbo. Io credo che il Napoli debba. Quello che è cambiato sicuramente dopo questo interessamento della Juve è che oggi una cessione di Higuain, faccio per dirti, all'Arsenal, al Chelsea, al Paris Saint-Germain, ieri sera girava anche una voce di Rabiot, più soldi, tanti soldi per Higuain. Beh, insomma, una roba di questo tipo, che magari 20 giorni fa sarebbe stata vista dai tifosi del Napoli con disperazione, oggi viene vista quasi invece come un'opportunità, perché chiaramente pur di non mandare alla Juve, che è diretta concorrente, al di là della rivalità nel campionato, magari i tifosi del Napoli adesso preferirebbero venderlo fuori. Marco da Perugia mi dice: è vero che giochi a Pokémon Go? No, non gioco a Pokémon Go, ma non ho niente, ho fatto una cosa scherzosa l'altro giorno con un cartello che appunto non si cercano Pokémon al momento. So che c'è tutto il mondo, sapete, che sta cercando i Pokémon, il mondo è impazzito. Va bene, De Laurentiis parla di torto al Napoli se la Juve prende Higuain. Se fosse stato il contrario sarebbe stato un torto, ci dice un altro ascoltatore, e questo è un altro tema. Insomma, io sono abbastanza d'accordo con Zampini, cioè credo che alla fine, se il prezzo c'è, è un prezzo oltretutto molto importante, è chiaro che perché alla fine non può essere considerato, non può essere considerato un torto, questo, su questo non ci sono dubbi. Il prezzo l'ha fissato il Napoli, era un prezzo che quando è stato fissato sembrava oggettivamente clamoroso e eccezionale. Beh, insomma, adesso è chiaro che la situazione è un pochino diversa. Mi fanno dei, dei cenni, ma ah, c'è Beccalossi, però se non me lo scrivete non lo sapete. Evaristo, come va? Eccoci, ciao ciao, buon pomeriggio, bene bene. Tutto a posto? Stai bene? Sì, sì, dai. Sei felice? Sei in vacanza? No, no, no, sto lavorando, no, sto okay, su Milano. Adesso precisiamo il concetto di lavoro. Che stai facendo in questo momento? Stiamo creando, dai. Stiamo venendo, monitorando la situazione di una squadra, poi un altro progettino, vediamo, dai. Tanti gerundi nella stessa frase. Come sta l'Inter? Il mal di pancia di Mancini com'è? Come va? Il mal di pancia di Roby? Ma no, dai, credo che si risolverà, anche perché questa è una fase dove abbiamo visto la prima fase di ritiro, mancavano un sacco di giocatori, adesso sono andati in tournée. Ecco, credo che ci sia un attimino quello che voglia Mancini, probabilmente avere un punto di riferimento per poter impostare il lavoro anche di mercato, perché la squadra sicuramente qualche movimento lo faranno. E adesso sta pensando a lavorare, però non credo, io ho sentito tante voci, sicuramente l'impressione che ci sia la società che stia lavorando per investire in un certo modo e magari l'allenatore che vorrebbe altre situazioni, però sono normali nel calcio, secondo me. L'importante è che si trovino e credo che presto ci sarà un incontro per andare tutti nella stessa direzione. Nella stessa direzione. Candreva è l'uomo giusto? Ricordiamo gli aggiornamenti su Candreva. Candreva ha di fatto l'accordo con l'Inter, la Lazio lo vende, l'ha dichiarato pubblicamente, però il Napoli ha fatto un'offerta migliore, lo Tito vorrebbe addirittura 25, 26, 27 milioni, ma il giocatore comunque è un giocatore molto importante e quindi insomma bisognerà capire in questo braccio di ferro come andrà a finire. È lui l'uomo giusto? Ma secondo me se gioca quei tre davanti, avere Icardi, Perisic a sinistra e Candreva a destra, non è male. In mezzo al campo ci sarà la maturazione, credo, di appunto di Condobia, Banega. Poi il Maggio credo che puntasse molto su Yaya Touré, però lì qualcuno la pensa in modo diverso. Secondo me sta uscendo una buona squadra, però l'importante adesso è che la società e l'allenatore vadano nella direzione giusta e chiariscano un po', perché non è bello sentir parlare all'esterno magari di certe cose, però credo che l'Inter sarà per il campionato sarà pronta, perché la squadra deve migliorare al quarto posto, quindi l'obiettivo è di andare nei primi tre, anche se la Juve secondo me è ancora la squadra più forte, quindi bisogna puntare a Ti faccio parlare con un grande interista, un interista anche un po' cuoco, che è Davide Oldani, che abbiamo... Stai cucinando, Davide? No, cuoco anche un chef, po' interista, chef, forse. Chef, scusa, ho detto cuoco, insomma, stiamo parlando, siamo al top. Però è un top pop, Oldani. Io ti ho chiamato per un motivo, qui c'era un dibattito fra cozze, vongole e telline, quindi dacci il giudizio definitivo. Quali sono le cozze? No, le cozze, vongole o telline, tu che sei un grande chef... Ma io direi un misto di tutte queste va bene, purché poi levate dai gusci. I gusci danno sempre fastidio. Ecco, i gusci danno fastidio. Invece Mancini, il mal di pancia di Mancini, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto l'idea che forse quella è un déjà vu del capriccio fatto dopo l'esclusione della Coppa della Champions di qualche anno fa, che poi arrivò Mourinho e fece quello che fece. Deve solo attendere un attimo. Deve portare un po' più di pazienza, che è l'uomo giusto, credo, nel posto giusto, solo con un filo più di pazienza, e poi potrebbe coronare il sogno di qualcosa in più, di vittoria in più. Senti, tu eri un buon giocatore, Beccalossi che ti ascolta, ti piaceva Beccalossi? Era un tuo mito? Becca, vuoi dirgli qualcosa? Per me era il Becca, non era Beccalossi, e devo dire che insomma ha lasciato il segno nel cuore. Io ero una punta, quindi avevo i piedi meno buoni e ero un po' più di forza, ma lui era l'esempio dell'eleganza, quindi grande periodo quello del Becca all'Inter. Ecco. E complimenti. Mamma mia, oh. Infallibile dal dischetto, fra l'altro, Beccalossi, non ne ha sbagliato neanche uno, La sua classe era... con Proasca erano quelli che insomma qualcosina ci hanno fatto fare, qualche bella figura ci hanno fatta fare. Che stai facendo? Stai cucinando? No, noi abbiamo chiuso il nuovo Do da una settimana, mi sto preparando Sono in fase di preparazione perché sarò Sporting Food Ambassador a Rio 2016. Dura vita. Sì, parto mercoledì prossimo e col Team Italia seguirò un po' tutto quello che è la parte di comunicazione la grande cucina e lo sport, quindi parlare il più possibile ai giovani per avvicinarli a questi due fantastici mondi che ho avuto modo di frequentare prima quando ero giovane nello sport e poi in età più avanzata facendo il cuoco, insomma. Va bene, vengo a fare l'assaggiatore, va bene, grazie della proposta, adesso poi ci mettiamo d'accordo. Grazie Oldani, grazie. Cerchiamo di vederci prima che parti. Becca, in conclusione, la Juve con Higuaín, con questo giro immenso, come cantava Venditti, insomma, di Pogba che va via, di Higuaín che arriva, si rafforza, si indebolisce, che succede? Chi ha detto che si indebolisce? No, ti faccio la domanda così. Pogba no, però è buono, cioè, anche sì, in prospettiva. Capito, se riuscissero a portare via Higuaín a Napoli, anche se non sarà semplice, però tu immagina l'innesto di piani, cioè, Higuaín e Dybala davanti, credo che il resto sia già a posto e l'obiettivo credo sia proprio con un innesto di un giocatore importante così la Champions League, però bisogna vedere appunto com'è la situazione di Napoli, perché anche De Laurentiis è stato chiaro: o vai lì e paghi o altrimenti diventa dura. Stai lì un secondo che ti devo far sentire una cosa di Ventura, prima però c'è Paolo da Bologna. Paolo. Pronto, buongiorno Pardo, buongiorno a tutti. Virtus o Fortitudo? Vediamo se facciamo 1-1. Virtus. Ah, è una storia lunga e strana. Ero un tifoso Fortitudo, poi ebbi la fortuna da ragazzo a 15 anni di fare una partita con Charlie Cagliari. Ah beh. E divenne il mio idolo. Io ero un ragazzino, quindi. Ragazzino, sì. E giocava nella Virtus, nel Sinudine di allora. E da allora è sempre stata un conflitto per me. Ecco. Di solito prendo posizioni, ma su questa cosa Virtus Fortitudo sono molto lacerato. È un po' come gozze e vongole, sì, capisco quei problemi. Prego Paolo, dica. No, nulla, la cosa è questa: secondo me non è stata fatta chiarezza, soprattutto dai giornalisti, sul discorso della clausola rescissoria, che è regolata. In questo caso si parla di Higuaín Napoli, è Higuaín che dovrebbe rescindere personalmente con la società. Ovvero, se la Juventus mai dovesse pagare la clausola, dovrebbe dare i soldi a Higuaín, e Higuaín a quel punto li dà al Napoli ed è un giocatore libero. La Juventus, parlo della Juventus, ma ovviamente vale sempre nel caso della clausola, a quel punto la Juventus lo prenderebbe, sì, però questi soldi non andrebbero in ammortamento, ovvero metti che fa un contratto di 4-5 anni, non ho idea di quello che sarebbe. Quindi le società, io non so quante volte è stato mai acquistato un giocatore pagando la clausola, perché non lo puoi mettere a bilancio in ammortamento. Non so se mi sono spiegato. Sì, si è spiegato. Beccalossi, sei d'accordo? Si è spiegato? Si è spiegato. Ho preso l'Aulin. Perché Beccalossi dopo pranzo insomma, il ragionamento ci sta, dai. Sì, no, ci sta, con grande rispetto, perché la mia era chiaramente una battuta, però non è una situazione semplice, dai, perché anche cioè lì, a parte che bisognerebbe sentire effettivamente cosa dice anche Higuaín, perché Napoli, De Laurentiis ha fatto capire com'è la situazione. La Juve secondo me gli piace Higuaín, quindi, però il giocatore si dice io voglio rimanere a Napoli, oppure si alza la mattina e dice non voglio più arrivare, cioè non voglio più rimanere a Napoli, e lì la situazione non è semplice. Poi come giocatore, se chiedi a me, ti dico che Higuaín fa fare il salto di qualità a qualsiasi squadra, perché insomma anche l'anno scorso i 36 gol, insomma giocatore straordinario. E la Juve, siccome negli ultimi anni hanno lavorato bene, si hanno preso in considerazione di vendere Pogba per andare su grande attaccante, ha una sua logica, assolutamente. Grazie Becca, buon lavoro. Ciao, buon pomeriggio. Non lavorare troppo, sono preoccupato. Sono abbastanza preoccupato. Mi chiedono di fare Nosotti, eccoci qui. Allora lo salutiamo, l'amico che ci ha scritto da casa. Proviamo anche a chiamare il Nosotti vero. Intanto, Andrea dalla provincia di Bergamo. Andrea, prego. Sì, ciao a tutti. Ciao. Sei contento di Zukanovic? Contento di Zucca, ma io tengo all'Atalanta, sì, contentissimo. Pare contentissimo. Che meno che non sia saltato gli ultimi anni. Esatto. Sono un po'. Mi è spiaciuto per il Ciga, però vabbè, non si può avere tutto. Soprattutto, il Ciga, dai. Prego, dimmi. Allora, niente, io volevo fare un intervento su Nibali, sul suo atteggiamento al tour, sì. Nel senso che è un pochettino deludente, cioè mi aspetto sempre che Nibali diventi quel fuoriclasse che può vincere tutto e tutto e sempre, e invece lo trovo un po' discontinuo, nel senso che è vero che lui ha vinto il Giro, è vero che non puoi vincere Giro e Tour, però Valverde è arrivato terzo, è un gran fuoriclasse molto più continuo, è lì che lotta ancora per il podio, poi magari non ci arriverà, e la scusa delle Olimpiadi non mi convince, nel senso che non penso che un Valverde non punti all'Olimpiade. Per cui secondo me Nibali ha ragione se vince le Olimpiadi, ma se perde le Olimpiadi deve fare una bella riflessione, insomma. Dici, sta facendo una scelta troppo conservativa per... pensando all'obiettivo olimpico, o troppo conservativa, oppure più che una scelta, ci sono dei periodi un po' lunghi dove non ne ha, nel senso, non credo che sia proprio una questione di scelta, sia proprio una questione di presa di coscienza. La risposta l'avremo a Rio, credo, Andrea. Magari non è un campione da 10, cioè non è un fuoriclasse alla Contador, alla Valverde, ma è un fuoriclasse da 8, ogni tanto la vince, ecco, ci sta, capito? Eh? Questa ci è una sta, mia un po', mi sto disilludendo su Nibali, ecco. Non credo che sia una scelta. Assolutamente. Grazie ad Andrea. Michele da Caserta. Sì, eccomi qua. Io sono juventino, chiamo da Caserta, sono doppiamente juventino perché tifo anche Juve Caserta, il fortitudo. Certo. E niente, io volevo parlare di questa metamorfosi di Laurentiis, che praticamente l'altra sera in conferenza stampa è passato dalle polemiche della Juve, gli arbitri, la non presentazione alla Coppa Italia di qualche anno fa in finale, a una squadra che ha vinto tanti scudetti, lo stile Juventus, la grande società. Secondo me ha un po' paura della Juve che gli porta via questo giocatore, Higuain. È chiaro che stiamo parlando di un crack, di un crack del mercato, quindi insomma, è evidente che se succederà questa cosa sarà una rivoluzione da mille punti di vista, ed è anche chiaro che questa è una materia che riguarda anche aspetti più romantici del calcio, perché comunque insomma c'è anche un'enorme rivalità fra queste due squadre. CS10 è contento, gli ho fatto uno sotto, tutto a posto. Stefano da Milano voleva salutare Becca, lo faccio con qualche istante di ritardo. Carmelo Prestisimone da Di Maro, perché fra esattamente 7 minuti e 23 secondi parla De Laurentiis, vero Carmelo? Esattamente, Pier, buon dove pomeriggio. Sei? Dove sei? L'hai già, guarda, visto? Adesso, che faccia? Sì, guarda, allora, adesso sono in prossimità, a qualche metro di distanza dal Teatro Comunale di Di Maro, dove sì. Dicevi bene. Romanzala un po', romanzala, facciala vivere. Sì, com'è il tempo? Bello, si vede questo skyline, tra le verdi valli della pubblicità valli occulta, devi dire anche premium, però adesso assolutamente, salutiamo gli amici di Sky, però butta dentro un premium da qui alla fine dell'intervento, vai. Per la par condicio ci sta tutto, assolutamente. E quindi insomma siamo qui in prossimità del Teatro Comunale, tra poco ci avviciniamo, insomma guadagniamo le poltrone per seguire tra 5 minuti più o meno, occhio e croce, insomma, la conferenza stampa di De Laurentiis, che finalmente si mostrerà a tutti i giornalisti qui a Di Maro. Si sposterà, Pier, dall'hotel Rosatti, dove è rintanato fondamentalmente già da ieri, da quando è arrivato l'altro giorno, però da ieri è chiuso, blindato nell'hotel Rosatti, che è il residence dove alloggia il Napoli, che sembra un po' il Gran Budapest Hotel, perché arrivano procuratori da ogni parte del mondo. Vabbè, ma gli exit poll come sono? Qua c'ho 27 ascoltatori e 4 minuti. Gli exit poll come sono? Che dicono? Che vi dite voi giornalisti? C'è aria di annuncio, di novità clamorose oppure... Beh, Higuain sarà sicuramente un giocatore del Napoli, insomma, questo mi sembra abbastanza chiaro. Ma come, Simone, 1:20 che andiamo avanti, la Juve compra Higuain, adesso tu ci smonti tutto, qua le 15:24. Ma vedrai che De Laurentiis dirà che a un certo punto non si è fatto concretamente nessuna squadra avanti per versare questa clausola di 94 milioni e mezzo di euro. C'è il tempo, Higuain, però, vedremo, però insomma... Sì, fino al 31 agosto, hai ragione, perfettamente, però ad oggi concretamente non c'è nessuno pronto a versare questa clausola. Higuain ha un contratto fino al 2018, quindi ancora altri 2 anni di contratto, e poi chi l'ha detto che Higuain vuole andare davvero via? Vuole andare davvero via? Questa è una domanda che si chiedono tutti. Senti, i rinnovi, perché oggi lì c'è il procuratore di Insigne, Esatto, c'è Ottaiano, il procuratore di Insigne, c'è anche Mario Giuffredi, che è il procuratore di Usai. Insomma, su questi due giocatori, che sono ancora tutto sommato abbastanza giovani, più Usai di Insigne, perché Usai ha 22 anni, è del 94, Insigne invece è un 91, quindi ha 25 anni, potrebbe anche essere, sì, vicini al rinnovo assolutamente, potrebbe essere anche fissata una clausola rescissoria. Su Usai c'è un gap tra la richiesta dello staff del giocatore, dell'imprescio del giocatore, a 1,5 all'anno, mentre invece oggi percepisce 1,100, quindi 400 milioni di euro di distanza. 400 mila euro, 400 milioni. Qua arriva Barisoni, poi ci cazzi a tutti, sbagliamo di mille. Va bene, quindi insomma, comunque c'è ottimismo per i due rinnovi, giusto? Sì, vatti a posizionare, guadagni la postazione, mi raccomando, che ci devi raccontare tutto dopo. 15:30 conferenza stampa di De Laurentiis. Massimo da Palermo. Calve, buongiorno. Come va? Tutto bene, perfetto. Dov'è lei? Dov'è? Si geolocalizzi, dov'è? A Mondello? Dov'è? No, alla Calza? Magari. Dove? No, in via la Regione Siciliana. Ah, beh, siamo al top, eh? Siamo al top. In azienda. In azienda. Che cosa produce, lavoro, se possiamo saperlo? Così poi Barisoni la chiama dopo. Che fate? No, non produco. Commercializzo mobilistica, sfalature. Un'azienda, ringraziando a Dio, abbastanza conosciuta in Sicilia. C'è richiesta di scaffali, sì. Sì, lo scaffale. Sempre. Lo scaffale non muore mai, prego. Allora, io secondo me quello che dico è che questa storia di Guaini sta solo giocando a De Laurentiis per un semplice motivo, perché visto che fino a un mesetto fa nessun giocatore voleva andare al Napoli, questo è un modo mediatico, come sa fare bene De Laurentiis, per far capire che il Napoli è una società importante e quindi ora i giocatori, che non c'è dei giocatori così facilmente, quindi secondo me può giovare solo a lui per poter fare acquisti di un certo rilievo, cosa che finora il Napoli non ha potuto fare, perché nessun giocatore hanno avuto sempre un pochettino di remore ad andare a Napoli in quest'ultima tornata di mercato i giocatori. Quindi secondo me Guaini rimarrà e comprerà altri giocatori Napoli più forti. Attenzione, sono Juventus, però la vedo così. Questa è la mia chiave di lettura. Io credo che ci sia anche un tema che, con tutti i difetti di Benitez, che indubbiamente ha fallito soprattutto il secondo anno e poi ha fallito anche quando ha lasciato il Napoli, bisogna riconoscere che con Benitez il Napoli aveva la capacità di contattare, magari anche direttamente con l'intercessione dello stesso allenatore, dei giocatori di profilo altissimo, perché Benitez comunque ha una storia di questo tipo. Sarri, che ha fatto un lavoro meraviglioso lo scorso anno, che sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore, da questo punto di vista magari è un pochino più digiuno, no? È un pochino più in difficoltà sulle relazioni, quindi forse c'è anche questo elemento. Non dimentichiamoci che il Napoli di Benitez, che finì male, però ha lasciato di fatto in eredità giocatori appunto come Higuain, come Callejon, come Mertens, tutta gente che è arrivata anche grazie alla credibilità internazionale di Don Raffaè. Filippo d'Arezzo, Filippo. Eccomi, buongiorno a tutti. Intervento incidentalmente calcistico, in realtà un po' più tecnico. Volevo riallacciarmi a un intervento fatto prima da un altro ascoltatore, il quale diceva che se la Juventus pagasse quell'importo di cui si sta parlando, poi non sarebbe ammortizzabile perché non è un costo suo. Sarebbe un onere pluriennale, quindi avrebbe la stessa dignità di ammortamento come se la controparte diretta fosse il Napoli. Quindi volevo in parte smentire o correggere il tiro dell'ascoltatore precedente. Sulla questione degli ammortamenti, perfetto, abbiamo ricondotto tutto. Per la prima telefonata c'è stato uno che voleva prendere calcio in culo, che diceva merdata, e invece abbiamo chiuso in linea con quella che è la tradizione della radio di Confindustria, che adesso proporrà che c'è il Falco e il Gabbiano con Enrico Ruggeri, e poi noi torniamo domani, torna Genta con enorme entusiasmo. 349-238-6666 per i messaggi, 800-24-0024. Io ringrazio i ragazzi dietro. Come state? Beh, vi siete divertiti? De Luca è contento, sembra proprio De Luca è svizzero, non è napoletano, è svizzero proprio. Va bene, salutiamo allora, arrivederci, il Falco e il Gabbiano. Grazie, ciao! Che spettacolo, da brividi!